Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, dipende dove siamo. Questa volta voglio parlare dell'internet e della rete sociale, della rete in generale. Sull'internet. È la rete, la parola più importante, se la libertà d'espressione, ma in una parola la libertà. In alcuni paesi voglio intentare di algún modo controllare lo che accade all'internet, lo che accade nella rete sociale, attraverso legislare leggi per lo che attiene al paese a livello locale, ma la rete per sé è libera. E forse può levantare muri a livello locale, ma non per molto tempo. Perché, come ho detto, a livello del mondo, la rete, l'internet è libero. In tutto caso, si deve controllare se stesso, la misma rete deve implementare muri, situazioni, protocolli per bloccare lo che si deve bloccare. Prima di che accade crimini. Prima di che quello criminale, prima di che quelli criminali facciano il portoghese. E se parliamo della rete sociale in speciale, ogni titolare di ogni conta deve avere la possibilità di proteggere, di blindare la sua conta in qualsiasi rete sociale e proteggere i contenuti dentro di questa rete sociale. La prima cosa che dobbiamo fare è definire una conta per ogni rete sociale. In altre parole, dobbiamo cercare, non dispersare quantità di contas in quantità di rete sociali, una solita conta per cada rete sociale. E farsi responsabilità di questa conta e del contenuti dentro di questa conta in ogni rete sociale. Claro che i protocolli di disegno in ogni applicazione o in ogni sito da internet deve permettere a ogni persona, a ogni titolare di ogni conta in ogni rete, proteggere, bloccare attraverso certi protocolli e attraverso questo modo si è possibile eliminare per completo tutto personaggio o persona che intente duplicare la personalità digitale di ognuno. Allo stesso tempo, l'applicazione, le siti da internet deve avere protocolli per ogni persona, per ogni titolare. Possiamo monetizzare contenuti che siano della nostra proprietà e il valore di monetizzazione dipenderà dalla qualità del contenuto. Però è importante che in ogni siti di internet, che in ogni applicazione possiamo monetizzare i nostri contenuti. È evidente che molti contenuti sei liberi in certo modo per postare nella rete sociale e ho detto in certo modo, perché promozione, perché pubblicità e di alcun modo è possibile monetizzare a futuro attraverso il postare di alcuni contenuti. Anche in questo momento sia di modo libero, però a futuro è possibile monetizzare alla grande. Va bene, ci vediamo dopo e buona fortuna a tutti.